La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori, buon pomeriggio, anzi direi 24, qui alle 16.36, 45 secondi in diretta. Oscar Giannino vi dà il buonvenuti alla versione di Oscar, dopo il mitico Matteo Caccia e anche a coloro che ci ascoltano in podcast naturalmente. Allora, oggi, in questo inizio settimana, noi non parliamo di tanti argomenti di cui vorrei parlarvi, che ne so, il meraviglioso articolo di Luca Ricolfi sulla Stampa di oggi che dice, è una risposta a Oscar Farinetti, dice: ma quale ottimismo? Bisogna essere solo pessimisti, sono anni che la politica ci ripete sempre le stesse cose e non prende mai decisioni. Oppure, che ne so, di quello che il Financial Times e il Wall Street Journal scrivono oggi stroncando il governo e dando ragione ai minoritari come me sull'operazione Poste con i nostri denari in Alitalia. Vedremo cosa succede oggi all'assemblea di Alitalia. No, oggi parliamo di una trasmissione di servizio, perché siccome con la legge di stabilità che sta arrivando, perché Letta e Saccomanni sono andati al capo dello Stato oggi a illustrarne le linee che dovrebbero ispirare la legge di stabilità, trattino, ancora una volta, quindi nessuna indicazione preventiva con chiarezza delle grandi scelte che con la legge di stabilità dovrebbero essere adottate per levare imposte a imprese e lavoro, e quindi aspettatevi un tira e mollo come a ogni finanziaria, visto che si apprenderà il testo solo dopo e ci sarà un'enorme protesta eccetera eccetera. Però siamo in attesa di capire come funzionerà l'imposizione immobiliare, quindi sulle case, l'anno prossimo, perché dopo tutti questi mesi passati a vedere l'abrogazione IMU prima casa prima rata, punto interrogativo ancora sulla copertura per la seconda, però dall'anno prossimo, quindi tra pochissimo, entra in vigore il nuovo sistema di tassazione sugli immobili, la service tax. E allora vogliamo fare questa trasmissione, avendo chiamato un esperto, per porvi il problema: ma voi ci credete davvero che la somma totale delle diversi criteri, oggi tentiamo di rispiegarveli, con cui funzionerà la service tax sarà inferiore alle parti di IMU prima casa intanto abrogate? Vi ricordo che sono in gioco 12 miliardi di euro, perché sommando le due rate di IMU prima casa, 4 miliardi, con l'imposizione che doveva scattare poi sui rifiuti e che invece viene inglobata nella nuova imposta l'anno prossimo, questa era la cifra. La promessa ufficiale del governo è che si pagherà di meno nel complesso, si parla di un 2 miliardi di meno, vedremo. Io adesso provo a elencare quello che abbiamo appreso in teoria di come dovrebbe funzionare questa service tax, poi diamo la parola all'esperto che vi presento subito per capire che cosa ci si attendono loro e che cosa temono loro, perché questa è un'imposta un po' complicata, cioè non esiste così in nessun paese al mondo, perché mette insieme elementi patrimoniali, elementi reddituali, l'imposizione su servizi indivisibili tipo l'illuminazione pubblica, i marciapiedi che tutti devono pagare più o meno nello stesso modo, con i servizi poi invece divisibili, quelli che ciascuno deve pagare in proporzione a quanto li consuma. E che cosa sappiamo attualmente secondo le indicazioni generali del governo su come dovrebbe funzionare? Sappiamo innanzitutto che i comuni saranno liberi di utilizzare due aliquote diverse, 3 o 3,5 per mille se utilizzeranno le rendite, ma non sappiamo se utilizzeranno il vecchio catastro se è disallineato oppure stime nuove fatte dall'osservatorio del territorio, oppure 30-35 centesimi di euro a metro quadrato se colpiranno le estensioni. Attenti che su questo 3 per mille o 3,5 per mille o 30-35 la somma può scavallare i 12 miliardi di cui parlavo all'inizio, quindi alla fine si pagherebbe di più. E va bene, detto tutto questo, che non sappiamo come funziona, l'imposta poi, vi ho detto, un po' patrimoniale, un po' reddituale, c'è due componenti. Una è quella che si chiama Tari. Che cos'è la Tari? Questa è quella che serve a colpire l'utilizzo dello smaltimento rifiuti comunale e che quindi pagherete in relazione a quanti rifiuti produrrete. Naturalmente questo significa che lo pagheranno gli inquilini, e qui il comune potrà variarne il peso a seconda di come sono composti i nuclei familiari eccetera eccetera. Per evitare, ha detto il governo, che troppo venga messo a carico degli inquilini, gli inquilini non devono pagare più del 25% del totale dell'imposta nelle due componenti, perché poi c'è questa seconda componente che si chiama la TASI, quella che infatti colpisce i servizi indivisibili. Anche su questo lo Stato lascerebbe ai comuni amplissime facoltà di differenziare a seconda dei criteri reddituali delle famiglie, Naturalmente, siccome qui il quoziente familiare non c'è, significa la somma dei redditi degli individui. Siccome non ce l'abbiamo il quoziente familiare, forse l'ISEE, anche questo non sappiamo i comuni come faranno a orizzontarsi. Dopodiché, la promessa non mantenuta quest'estate della deducibilità fino al 50% a fini IRES e IRPEF dell'imposta sui beni strumentali, cioè i capannoni o le sedi di aziende individuali o per artigiani, vi ricordate, promessa non mantenuta, perché poi il governo l'ha fatta saltare invece dando copertura, siccome mancavano i soldi, diminuendo la detraibilità sull'IRPEF delle polizze, verrebbe reintrodotta questa deduzione per professionisti e imprese. Ma anche qua il governo si è riservato di dire sì, la introduciamo, ma solo a condizioni di recuperare le risorse necessarie con un aumento dell'imposizione sugli immobili sfitti, che vi ricordo per la componente IRPEF sono esclusi, sono soggetti sulla imposta municipale e che quindi invece adesso verrebbero gravati anche le tassazioni in quanto sfitti, il tutto in un'imposta e al netto che posso avere. Io non capito molte cose. Allora la parola adesso a chi ne sa sicuramente più di me. Abbiamo con noi Giorgio Spaziani Testa, che è il segretario generale di Confedilizia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto corregga gli errori se ne abbiamo fatti e dica che cosa teme di più di quello che lo Stato fino a questo momento non ha capito, non ha spiegato, voglio dire, in come funzionerà questo complesso IRCOCERV. Beh, per correggere gli errori purtroppo non servo io, ma servirebbe un rappresentante anche autorevole del governo, visto che quello che si sa di ciò che si sta facendo nella legge di stabilità per la nuova tassa sui servizi, la service tax, è finora uscito solo sui giornali, parlo di questi giorni. Di precedente c'è una cosa importante, cioè quello che è emerso nel Consiglio dei Ministri del 28 agosto scorso, lo stesso che ha stabilito il fatto che non si dovesse più pagare l'IMU sulla prima casa, la prima rata, e l'impegno per la seconda. Cosa è emerso in quel Consiglio dei Ministri e cosa ci preoccupa invece di quello che sta emergendo dai giornali di questi giorni? In quel Consiglio dei Ministri è emersa una cosa che a noi pareva interessante, cioè la possibilità di introdurre in Italia una nuova forma di imposizione che noi riteniamo moderna e che riteniamo diciamo confacente ad un federalismo che non sia solo di facciata come spesso è, ma ad un federalismo davvero competitivo fra enti impositori, cioè una forma di imposizione, una tassa, un tributo sui servizi collegato al beneficio che ai singoli immobili porta il singolo servizio. E intendiamoci, non è una novità assoluta come principio, non è mai stato applicato, ma non è una novità assoluta come principio, perché già la legge delega sul federalismo fiscale, dalla quale poi sono venuti fuori molti decreti delegati che l'hanno probabilmente, anzi certamente non del tutto attuata, che cosa diceva? Diceva che ci doveva essere, le leggo testualmente ma è brevissima, una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa. Quindi, questo però, mi permetta, riguarderebbe, prego, essenzialmente la componente servizi, sia divisibili che indivisibili, cioè sia la nettezza urbana che l'illuminazione e i costi ovviamente che non vengono coperti come esternalità negativa, come benefici di infrastrutturazione urbana, ma qui ci sono anche elementi sia patrimoniali che reddituali. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta a 16:47 e 37 secondi, stiamo parlando della service tax in arrivo, tentando di spiegare in cosa potrebbe consistere, se davvero sarà la somma delle diverse componenti della nuova imposizione immobiliare inferiore a quella di prima, sommando quello che era dovuto sulla IMU e la nuova tassa sui rifiuti che doveva entrare in vigore. E abbiamo con noi Giorgio Spaziani Testa, il segretario generale di Confedilizia, che ci stava dicendo, beh, insomma, se ci fosse un'imposizione federalista sull'immobiliare, quindi differenziata anche, ma essenzialmente col principio del beneficio, pago di più in cambio del fatto che poi l'ente locale mi dà di più, sarebbe giusto. Però la domanda era, qui ci sono anche componenti patrimoniali e reddituali che prescindono da tutto questo. Ma sono quelle che noi per l'appunto contestiamo, perché di questo, di componente patrimoniale pure e semplice, non si può parlare se si parla di appunto service tax, se si parla di tassa sui servizi, che è una definizione che deve, ripeto, diciamo, veniva fuori anche da quel Consiglio dei Ministri del 28 agosto che torno a citare, se si fa riferimento ad un tributo che vede nel beneficio arrecato agli immobili e con diverse, diciamo, connotazioni per occupante o proprietario, se si fa riferimento al beneficio arrecato agli immobili dai singoli servizi, io credo non si debba parlare di una componente patrimoniale, altrimenti cosa si fa? Non si fa un nuovo tributo, ma si fa una nuova versione di una imposta puramente e semplicemente patrimoniale, come era l'IMU con la sua gravosità e come era però anche di fatto l'ICI prima dell'IMU. È questa la contestazione che facciamo noi nel momento stesso in cui chiediamo però maggiori informazioni su quello che si vuole fare. Il ministro Saccomanni stesso in Consiglio dei Ministri parlò di opere che aumentino il valore degli immobili. E si deve parlare in questo caso di differenze poi nell'ambito della imposizione nei confronti del proprietario, dell'occupante a diverso titolo, in relazione ai tipi di servizi diversi e ai tipi di benefici diversi di cui godono queste due categorie di persone, però di questo si deve parlare, non di imposta puramente e semplicemente patrimoniale, altrimenti non vi sarebbe alcuna innovazione. Questa è la paura molto chiaro che avete. Secondo lei qual è il criterio di efficienza economico, di equità, me lo dica lei, perché a me sfugge, per il quale bisognerebbe collegare, se le indiscrezioni che abbiamo, ma queste sono le indicazioni date dal governo, quindi le indiscrezioni sono fondate, poi vedremo il provvedimento, ma qual è il nesso e la spiegazione per la quale la deducibilità a fini IRPEF o IRES, IRPEF ovviamente stiamo parlando di imprenditore individuale, IRES sul reddito d'impresa del 50% del totale dell'imposta, che è saltato perché era già previsto quest'estate ma riscalterebbe, perché legarlo al fatto di sottoporre a quel punto a IRPEF, all'aliquota della cedolare secca sugli acquisti, e il reddito di immobili non affittati sui proprietari? Perché cosa c'entra il nesso tra le due cose? La prima cosa dovrebbe essere giusta in sé per far ripartire l'economia, la seconda è una cosa che mi lascia molto perplesso, capisco che sia popolare perché la gente è convinta, no, dateci le case sfitte, ma perché a quel punto assoggettare a IRPEF un immobile sfitto? Parole sante queste di perplessità su questa impostazione, ed è assurda il fatto di legare le due cose, perché si può ritenere condivisibile, anche se ci sono forse anche altre proprietà, gli immobili stessi in affitto sono stati tartassati con l'IMU, ma comunque si può ritenere presa a sé stante utile un intervento per la deducibilità dell'IMU da parte di imprese e professionisti, ma non deve essere pensabile che questo tipo di intervento venga finanziato non solo da un'altra forma di imposizione, perché a questo siamo, e non si parla mai di riduzione di spese per andare su discorsi alti, ma addirittura una forma di imposizione del tutto sbagliata. Come accennava lei, l'immobile sfitto come concetto è questo da sradicare nella testa di molte persone. Non esiste un proprietario che goda a tenere sfitto per l'appunto un immobile. Un immobile può essere o non affittato perché effettivamente tenuto a disposizione come seconda casa, tra virgolette, quella la vera seconda casa di cui si può parlare, quella di villeggiatura, oppure un immobile che il proprietario, e ora in questo periodo succede sempre di più, ha sul groppone, diciamo così, non riesce ad affittare perché non trova inquilini. Quindi punire ulteriormente questo tipo di bene è del tutto irrazionale. E quindi anche, siamo d'accordo anche su quest'altra perplessità. Terza perplessità, siccome qua i comuni hanno bisogno dal 1 gennaio, saranno 4 rate entro l'anno oppure in un'unica soluzione a giugno, quindi preparatevi voi che siete in ascolto a pagare la nuova service tax, ma i comuni ne hanno un dannato bisogno per l'equilibrio dei bilanci, ma come si risolve in così poche settimane, visto che qui da gennaio bisogna iniziare a pagare la totale difformità dei catasti in tutto il territorio nazionale? Si tornerà alla superficie, si era detto che la superficie non andava bene, che bisognava guardare la redditività, abbiamo scoperto che il catasto è indietro di anni e ognuno potrà scegliere come vuole. Risultato secondo lei? Ma per quanto riguarda tutto ciò che si basa sui dati catastali, come sa c'è una riforma che sta per andare in porto, ora entrerà in Senato proprio domani, ma sappiamo che... ho capito, ma non è che è operativa con i nuovi aggiornamenti da gennaio per i comuni? Certamente, se sarà approvata in termini ristretti, comunque la sua applicazione richiederà anni. Quello che si può dire è innanzitutto per il passato che certi aggiustamenti di cui si parla, della cui necessità si parla tanto, potevano essere fatti anche in passato e potevano collaborare i comuni che non lo hanno mai fatto. Quello che non si deve fare, parto dal negativo, è partire da un utilizzo grossolano che lo stesso ministro Saccomanni ha ritenuto pericolosissimo dei valori dell'osservatorio immobiliare dell'agenzia. Sono completamente d'accordo ed è quello che io temo, la devo interrompere perché siamo in chiusura, ed è quello che io temo perché temo l'effetto sete dei comuni. Non voglio attaccare i comuni, so che hanno avuto molti tagli, ma attenti, vedremo il provvedimento che esce adesso nei prossimi 2 giorni, ma come vedete sull'ammontare totale, sui tipi diversi di criteri tra patrimonio e reddito, sull'esenzione per le aziende e per i contribuenti e per le imprese individuali, e sui criteri per calcolare la parte patrimoniale, catasto oppure superficie, quanti punti interrogativi? Vediamo se ci fregano! Comunque appuntamento a domani, restate su Radio 24.